picchi positivi. Radio com'è? La radio è leggermente aumentata. Poi mi sei, può confermare anche Pomponio, Gianni. Attento Gianni, mi ascolti, cambio. Pompo! Dimmi! Guarda se senti Giovanni che sta provando il microfono. Ehi, approva Giovanni un attimo. 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, prova radio. Cambio. 5 di radio. Finalmente, dai. Dunque, ci siamo adesso. Segnale 7, radio 5. Dunque, ci siamo, dai. A voglia, ci sei. Ringrazio, dai. A posto così, grazie. Di niente, non c'è problema. Qua 6-9 picchi positivi a radio 5, dai, va bene. Meglio di prima, Ho fatto le prove con la cuffia come mi ha detto Gianni, capito? Cappa. Anche se io preferivo con l'altro apparecchio, Dai, ho provato a regolare l'altro microfono, guarda se adesso va meglio. Qual è un passaggio più lungo già? Ehi, a 1, 2, 3, prova, prove tecniche e trasmissione. Un pelino meglio mi sembra. Meno compresso risulti, dai. Perché era al massimo, sicuramente quello lì che era troppo forte, dai. Bene, meglio così. Invece che ci sono fatte tra un po' le 5 e mezza qua, già vabbè, già c'è ancora un pochino di tempo, fate un paio di passaggi. Brava, riprendi Pompu. Adesso quello qui, dimmi tutto. Aspetti te, avanti Giova. Mi dai la mano a regolare l'eco, per favore? Giova! Però mi devi dire perché... Aspetta, ma com'è adesso? Adesso è liscio, senza eco. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Così va bene, se vuoi aumentare un altro pelino lo puoi fare. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Vuoi aumentare oltre. Va bene, così Daniele. Cava. Prova a abbassarlo di poco a poco, vedere. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, cambio. Va bene così. E si conferma come ha detto Gianni, non tocca se, puntella così. Ma così non lo so fare più perché la radio è parata, si tratta con lei. Quello che apparecchio è un DPR 6009, ma ce l'ho un paio d'ore, capo. Ah, ce l'hai preso tu? Che me l'hanno regalato stamattina, ma cazzo non ne capisco niente. Va bene così, lascialo, non tocca se, lascialo così. Già li faccio una fotografia adesso. Tu dici bello forte, va bene anche il segnale, prova a modulare il segnale quanto sì. E mi interessa la radio, come il segnale, la radio mi interessa. E ti devo pure l'altro, sì, 9.5 radio 5 a bomba. Ma si sta aprendo la propagazione già. Cosa? Non ti ho capito. Ho detto, si sta aprendo la propagazione o c'è qualcuno su un'altra frequenza? No, io non sento niente, la verità. Vediamo un po' se Tonino vuole entrare. Tonino? C'è una portante sul 12, mi sa. No, io non ho contattato niente. Io, vabbè, a me non mi disturbo, non sento nessuno. Guarda se c'è portante al 12 da te, già, dimmi il segnale. No, no, ma c'è, al 12 è... sta arrivando Santiago Onofre. Ma se non disturbo, no, dai. E poi adesso sento parlare, è come se fosse qualcuno, quando prendi i colpi in qualche canale a fianco, capito? E qui non capisco se è propagazione, qualcuno che qualche in banda laterale, non lo so. Giovanni. Era un segnale oscillante già, come se stessi accordando, boh. Beh, comunque, quando ti ho detto che senti a parlare l'ho sentito anche io, dai. Adesso c'è nuovo la portante 8. Sono Giovanni che non sta più scelto di radio, boh. È quello che ho pensato io, perché lo chiama e non risponde. Quindi non è... non sono le orecchie mie che hanno le allucinazioni, no? No, lo sentite anche io, come tu hai detto, stavo anche parlando, lo sentite anche io. Ho sentito nominare Giovanni, mi sono spostato a prendere un po' di legna per la stanza, cambio. Ah, Giovanni. arrivo subito, però aspetta una volta per di San Marco. Ehi, ehi, vai a pigliare San Marco, lascia lasciare San Marco per arrivare. Avanti, ehi. Ehi, siete tipi, chi sei? Attention, my friend, Sardinia from Italy, Italy from Sardinia. Attention, my friend. Stavo pulendo l'antenna della salsedine e c'era tutta una pattina di sale, no? Come c'era vento in spiaggia. Io l'ho piazzata da poco, l'antenna c'era già la salsedine, capito? La salsedine c'era già, nella mia. E va tolta subito, se no corrode. Intacca il metallo piano piano. Quando l'ho scesa l'ho pulita un po'. L'ho scesa perché dovevo cambiare il palo che me l'ha piegato il vento. Che io non usciva di radio in macchina, avanti. Io non usciva di radio, 9.30 qua era, che non lo faccio le palle. Mi dedico, dai, insomma, qua è acceso, ma sto facendo altro già, sempre ripulisti di antenna, di antenne varie, tutte impolverate, eccetera, ogni tanto bisogna farle, sennò poi si sciupano. Ciao, buona serata. La maschera antica si ripulisce. Tutto a disposizione, ma in caso di guerra nucleare ce l'attacchiamo a spalle. Intanto poi come ti dirà capire la reazione ci arrivano lo stesso, quindi cosa la più temere, cosa la resistenza, c'è proprio la mascherina senza mangiare, senza... No, infatti, puoi bere al limite, puoi bere, puoi mangiare roba a soluzioni nutrienti, ma no, ma poi quelle sono più da collezione, cioè... Sei già morto. Bene, buona serata, dai, ciao. Non c'è che me l'ho ti raccontate, ma sei passato tranquillamente. E sono contento. A parte chi vuole entrare? Danilo da questa parte, stavo aspettando che qualcuno mi rispondesse. Noi abbiamo visto la portante e pensavamo che fosse qualcuno che volesse rompere, capito? Non abbiamo risposto per questo. Sento la portante un po' disturbata e mi arriva anche un bel segnalone, chi è? Non lo so chi è. C'era da poco fa, ma quando non lo passava, a me non mi passava, per cui problemi non me ne sono messi. Tu mi arrivi 9.30 di segnale, però radio bassa, chiara ma bassa. Bassa? È perché sto parlando lontano dal microfono, guarda adesso come arriva la radio. Beh, adesso iniziamo a ragionare, faccio riesco a capirti anche da lontano. Cappa, cappa, chiara la radio, sì. Dai. Dimmi. Ho letto la radio, chiara, Sì, adesso è chiara la radio. Cappa, allora lascio così, perché l'ho passato poco fa. Mi hanno detto che era un po' satura, come altro il microfono dicono che è satura. Quindi me l'hanno fatta passare. C'hai appena di ecco aperto? Sì, l'ecco c'è, sì. No, toglielo un attimino. Così è tolto. Lascialo così, così è bella pulita la voce. Invece con l'ecco ti seguo un pochino dietro e sembra metallico. Ho capito. Sono con Galaxy e con Saturneco, liscio liscio, come Lulio. Chi è che c'ha una radio che viaggia in banda laterale nei canali molto alti? Io ce l'ho ma non la do. I canali oltre i 40 io parlo, Sì, ho capito. Acciurami. Non c'è nessuno, no? Ci sei tu che la radio non ne voglia di accendere, gli altri? Anche 80. Perché le garage non va oltre il 40, scusi? Per forza dovrebbe andare. E allora? A te cosa ti serve? 7555. Sarebbe canale... 12 banda alta. Yes. Chiamale di chiamata quella in banda laterale, dove fanno tutti quanti le chiamate e dopo da lì si spostano. Ho capito, se vuoi andare possiamo andare, non c'è problema. Così mi dici che differenza c'è tra questa e un'antenna che ho piazzato. Già, mi ci sono anch'io, provo a fare collegamento anch'io. Ok, dai, ci vediamo lì direttamente. Io non sento nessuno, dai. Marcus, attento, Danilo. Chi vai già nei piedi, sono rientrato. Cosa c'è, cosa c'è? Tutti spariti sono? No, stavo facendo una prova su 12 USB da... Ma... Non sento per niente. Che è? Ola, ola, chi è? Ehi, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. E lui? Giovane. Dov'è? È Antoine. Devo cambiare faccia, tu hai cambia. Sto convendendo un progettino, sto convendendo, che si dì, un capo mio. Ma progettando stai. Che appa. Ma che avevi tipo ti ha preso e sento un'altra voce, Antu? La mia moglie. Ah, quella familiare. Sembra che ci fosse un'altra radio a fianco e tu stavo parlando. No, perché al telefonino c'è la mia cognata, capito? Mia gassi. Antonio, quando parla è triplicata la voce. Non c'è bisogno di eco già. Già incorporato, Allora. Vabbè, mi attende a capo una cosa. E dicela se ce la puoi dire, Antonio, ci lasci curiosità, che... Sto già progettando in capo mio di... Sì, te lo metto adesso. Sto progettando, c'ho un palo da 4 metri, c'ho. Sto progettando di munire da 4 metri, la nuova Ringo, capito? Non questa, no. Chi sta nella varo la pulisco bene e via, capito? Ma la nuova Ringo tu ce l'hai già? Cappa! In Burigada, via, No, senza Buriga. Non ti preoccupare. Senza Buriga. Vabbè, comunque è nuova, dai. Cappa! Io stavo pensando adesso di tararla bene, bene, bene. Questi da 1-1, la vulcanizzo tutta quanta, come quella di via Milano. Sì. Ma manco non entraeva. Sto pensando di vulcanizzarla bene e poi ce la salgo ben alto. E fa questo progetto. E poi proviamo. E poi vediamo se va. Buonasera Antonio, ben sentito, cambio. Avanti, che ci avendo in occhi. Giovanni Stanco, dal sesto fecine, cambio. Cappa Giovanni, già ti sento qua. Tu mi senti lì? Molto meglio delle altre volte, cosa hai combinato? Cavolo, l'altra volta era in deposito. Ma in deposito non ho nulla, capito? Poi magari qua è molto più migliore. Però io già ti sento in deposito. Comunque, tu che hai la Ringo, ti devo dire un segreto. Non usare il cavolo perché non ti rende quell'antenna. L'ho letto io, capito? Usa capo grosso, vorrà che cambia la musica, perché loro consigliano di usare un RG8, se tu usi anche un 213 o un H500, allora cambia la musica, capito? Come ce l'ho io, perché perde molto in prestazioni, capito? A meno che non ne hai poco di capo. Il capo è poco, ma il problema è che l'altra volta io l'ho tirata su, c'era... e niente, cazzo, siccome ho nettato due spalle, sicuramente cazzo ha preso qualche colpo in terra, capito, e vuole ricontrollarla, perché era ottima quella antenna. No, vuole dire fatta bene, vuole, se non la piazzi bene non rende, io l'ho tirata subito qua. All'incirca... Mi, 39 mi, la lucernaglia la giù da Radda, non è che ho fatto chissà che cosa, mi. Cioè, ho aperto lucernaglio e la giù da Radda un poco. E dico che già funziona. Funziona bene, mi trovavo benissimo, poi però, cazzo, è basso, sai, la terra. Piano piano bisogna. Cioè, per quanto c'è il stazionario? Non ne aveva, cazzo, aveva fatto un bel lavoro, non ne aveva. Però vabbè, è stata preparata e non viene regalata e pure tutta casa pulita e riciclata, ma va, come si vede un tempo buono, non era fatto, si fa come tu stava giusto pure lì al tempo, gli altri pezzi al tempo. Non riesco a sentire, abbasso un po' quell'eco, mamma mia. Hai visto, mi hanno detto che andava bene, adesso l'ho fatto, meno male. Va benissimo, Anto, perché lo stai facendo abbassare? Va bene. Non riesco a capire cosa stava dicendo, non sono riuscito a capire. Io capisco tutto quello che dice, come mai? E a me, Anto, come mi senti con l'eco? Una bomba. Ti piace? È stato un eco? Con questo eco qui va bene? Scappa che va bene. Capito? E vabbè, comunque è così. Ci sono degli accorgimenti da fare. Ma è che io sto pompando, cioè non faccio un arringo lo stesso. Perché? Perché ho usato l'H155. È un capo che perde poco e mi dà tante prestazioni. Capito? E se sento la differenza, io ce l'ho là, però qualcosa manca. Sento che qualcosa manca, ma già va bene lo stesso però. No, è tutto, tutto ben fatto. Solo che ti ho detto che quando gli ho aggiunto l'altro palo, ho fatto il prolungamento, coricandola in terra, ho dovuto usare la mazzetta, sicuramente cazzo era molto lunga, ha preso qualche colpo, ha preso, capito, ma già si può rimediare. Cappa, mia bella, andate un po'. Ehi, a qua sono. Stavo facendo questa, riaccalciando ho fatto il coso sotto l'eco e mi sono accorto che mancava il trimmer dell'eco. Adesso l'ho messo il potenziometro, adesso devo fargli il foro per metterlo all'esterno in modo da fargli la regolazione. E questo già esce bene, è perfetto adesso. La regolazione me l'ha data Gianni, mi dice che va bene, è perfetta, non dà fastidio, quindi già esce bene. Ma che hai fatto fischiando? Cava cava, no, la prossima volta la riprendo la J-Paul. Vedi che c'è quella sigla tornato, vai, un cazzo la puoi piazzare quella tu. Sette metri radiali. Quella adesso me la piazzo io, costano molto più euro, è un'offerta. Ma come cazzo si fa a mettere 7 metri radiali? Ma quel cazzo di guglionata se non si svende? No, mi arriva in 3 giorni. Stacco la mantova e ci metto quella. Senza radiali quella pompona, J-Paul. Sì, la J-Paul lo so che è senza radiali, ma già lo so anch'io. C'è anche la cosa, vabbè, ce ne sono tante antenne, se per questo in giro. Io voglio mettere quella 4 radiali da 7 metri e 2, cambiare il palo e fare 3 fori per piazzare il palo nuovo. Almeno esco come si deve, la mantova la stacco, se la pulisco bene e poi si vedrà, capito? Pompone, attento Pompone. Cabagaba! Dio, un destino centrale, perché se te metti il mezzo del radiale non l'ho mai visto da te. E allora con chi c'è la direttiva? E guarda, te lo sto dicendo, guarda su Sirio, tornado 5 ottavi, 7,2 metri di radiali e costa 82 euro. Guarda, adesso su eBay la trovi immediatamente. Sirio tornado si chiama. Già, non ci credeva nessuno, gliel'ho fatta vedere e ci è rimasta male. Tanto me, quello centrale si chiama stilo, radiali sono quelli laterali. Se tu mi dici che radiali sono 7 metri di radiale, cazzo, io mi meraviglio perché non l'ho mai visto così. Anche a te lo sei meravigliato. C'è scritto 7 metri e 2 di radiali, non di stilo. L'antenna è una 5 ottava e c'è scritto 7 metri. Ma fatti una cagata! Tra adesso ti rendi conto, non ti sto dicendo stronzate. Non voglio insistere, però può sembrare un po' strano. Comunque, ne hanno fatto un'altra di antenna, Daniele, non so se hai visto quella che hanno fatto nuova, che è 10 metri alta, senza radiali. Tic tac, 10 metri, sempre più in alto qua, già Jackpot è 8 metri, 7 metri, quanto è? E come si chiama già? La... Grazioli. Aspetta che me la guardo, Grazioli, vero? Aspetta, adesso la cerchiamo, vero da dice. Però non sono sicuro che non abbia radiali, quello lì non lo so sicuro, forse ce li ha radiali. Però 10 metri, cavolo, te l'ha puntinato e manco tocca le radiali, Ma poi fa vela nel palo, porca miseria. Anche quello, perché c'ho poi lo, l'ultimo elemento che è sottile come quello del palo della TV, capito? Basta che rimetti un altro palo, scusa, un altro pezzo di palo. Io gli ho messo tipo l'acqua direttamente, buonanotte. Ci avevo la base, perché mi si è spezzato quello, spezzato, piegato, si è convetto, si è pigiato in due. Lui, quello del, quelli delle scupici, non servono un cavolo. Guarda, l'ho pubblicato adesso, se guardi su Facebook te la guardi. Aspetta un po' che sto guardando, sto entrando su, faccia di libro. E che amore, ma è buon qui a tenne così, no? A mandare le dici, a tenere il genere non ne metto, non manco per le scatole. Gianni, non ci crede? Adesso gliel'ho messa su Facebook. Ho pubblicata io adesso. Sì, ma rompono solo i coglioni e basta, scusa se te lo dico. Se è vero che c'è questo radiali così grande, io non manco per idea. Ma buffonendite se ti metti il radiale, ma cosa si intende? Non manco per idea la premessa una cosa del genere. Aspetta che adesso la guarda, mi fa anche tu su Facebook, non sto dicendo cazzato. L'ho pubblicato adesso. Sì, ritornato, 5 a base CB, 26-29, con radiale lunghezza 7,2 m. Guardatela bene, su Facebook. C'è anche la foto. Ma mi è apparso, no, Pompù. Se è apparso a me, cazzo, non è apparso a te. La vedo adesso io. Adesso. Guarda quanto avevo bittato. Su Facebook, guarda, quello che ho messo e c'è scritto. Cappa, non mi appassano al collo, devo entrare da te per vederlo. Cappa, bene veda. Tanto è gigantesca per casa. Un cacchio ci sta qua. Lo so che non ci sta infatti, ma già devo ci andare a credere, siccome l'ho vista l'altra volta, cosa l'ho fatto tu io, ma adesso me la rompio o me la piazzo? Non me ne frega niente, stacco la mantova e ci metto quella, un palotto di scupito. Metto 4 metri di palo e quella antenna lì, e la mantova la butto giù, e la mantova tutta la butto giù insieme al palo dell'acqua. Hai capito? E così almeno sono tranquillo. Ti abbassano 4 metri, intanto non è pesante quell'antenna, come la mantova, capito? È molto più fine, quindi... Però se mettete di voi dei radiali sono parecchio, dovete pompare come un treno, dovete pompare quell'antenna. Brava. Bella. Sì, anche questa che c'è, questa Gran Plaine, cavolo, i 40 metri, stavo ascoltando l'altro pomeriggio. Dalla punta di Casino, ancora a Perugia, cavolo, sto arrivando forte. 40 metri, 45 metri risuona, lo sai anche tu. La Gran Plaine risuona perché è un 4 donne. Ma anche il 5 ottavo risuona, 40-45. Infatti, se voi fate di poco per i 40-45 metri... Ah, vai, quindi l'altro mezzo. 20 per parte, di cavo elettrico da 1 o da 2, però fa 10 metri e 20, lo stendi e ti sei fatto di polo per lo fai a puro pesciata e sei a posto. Antonio hai ragione, lui stare. Ma mi sembra un po' strano, ma di solito sono 2,75 al massimo il radiale, che da che si 7 metri e passa. Hai visto se avevo ragione, non ti sto dicendo cazzate. L'ho vista, costa 98 euro, più 10 euro di sconto, quindi ti viene 98,88 più, vabbè, mettici la spedizione, quindi siamo lì, intorno ai 100 euro, però ne vale anche la pena. Per quello che costa voglio dire antenne, 140, 170 euro, mi prendo quella immediatamente e c'ho l'antenna nuova. Onde evitare, cioè, adesso quando smonterò davanti, ma senz'altro ci saranno dei problemi, questo è poco ma sicuro. Devo stare senza antenna e vi prendo quella, vi piazzo quella. Poi ci sono, se guardi su, vedi su eBay, ci sono le antenne, la tubo, come si chiama, la BA27L costa intorno a 60 euro, una cosa del genere, costa una cazzata adesso le antenne. Ci sono gli sconti, ci sono. Anche quella che ci aveva prima, cioè in pratica la 50 la mezz'ombra, ci sono gli sconti adesso. Sai che io dicevo molto a te, quella che ho preso io non me ne sono pentito, va benissimo, l'ho pagata, però l'ho pagata, costava 180, l'ho pagata a 150 con lo sconto, ma 180 costava. Lo so, infatti la voglio prendere per quello questa lunedì. Lunedì me la ordino, la prendo e poi mi viene in 3 giorni qua a casa. Lo aspetto alla fine a fine, prendo, me la piazzo e stacco la mantola, tanto sono sicuro che mi crea problemi a staccarla, quindi per non stare senza antenna la metto i 4 metri di palo telescopico e la piazzo dove c'è la bibanda, capito? La VU. Metto il palo lì e 4 metri di palo va bene lo stesso, 7 metri di radiale a voglia. Sono un bello. Cosa stavo dicendo? Guarda però cosa dicono nei forum, se è buona come antenna, prima di bigliare. No. Ho controllato, già pompa già quell'antenna. Cazzo, se ti metti 2 di radiale mica c'è un bemme. Cazzo, se sono un bello. C'è una risonanza allucinante, diciamo. Quindi mi sta bene così. Basta che la metto 2 metri sopra il tetto e un 4 onda giusto. Quando la piazzo vediamo come esce, dai, così facciamo la prova. Se è meglio la mantova turbo o se è meglio quella lì. E tanto la mantova come la scendi, come minimo c'ha la basetta dove si attacca il PL tutto il ginocchio, perché prende lì la lucida. E appunto per quello, ha fatto il palo, ma la ruggine senz'altro c'è dove c'è il PL, mi tocca smontare tutta l'antenna, eccetera, eccetera, fare la placchetta nuova, non so cosa vuole, però avevo già fatto quel lavoro lì, nell'antenna che avevo dato a... che avevo io, che avevo installato a Sassari Vecchio, è riuscito a sistemarla, a metterla a posto. Poi a posto di mettere tutti i veri avevo messo neanche la metà, figurati. Però usciva bene. Dopodiché l'avevo regalato a Stefano, si era messa a casa sua e usciva bene lo stesso. Quindi non aveva perso niente. Il problema è solo che devi pulirla, perché c'ha quella placchetta, potrebbe essere in acciaio e in ferro, quindi con l'alluminio sono senz'altro che i radiali ne scenderanno come le mele coppe, cazzo. Cioè, una volta che mollo i bulloncini e i radiali me ne vado tutto in terra. I suoi anni, quella era di Stefano, no? Te l'aveva data a Stefano poi. No, in realtà io a Stefano l'antenna, non è che me l'aveva data, non l'avevo comprata. La tuba che mi la mappa della tuba l'avevo regalata io, se l'aveva pensata lui lì a carica, se ti ricordi. Poi lui era a Urbia, aveva fatto questo vento forte, cosa del genere, aveva spaccato il palo, che aveva piegato il palo e aveva spaccato l'antenna, piegata proprio. Me l'hanno mandato una di antenna, ce la vedi, oi. Tu stropicciata dal vento. Ehi, anche la direttiva ci voleva sapere questo, mi sembra, se non ricordo male, una direttiva, un riporto, non so quello che è, ma... quindi, io. Purtroppo adesso con le antenne mi sono trovato molto attento. Meglio le antenne basse che antenne alte qua. Ti metti i tiranti allo stilo, ti metti i tiranti alla base e ti dura un po' di anni. Se un buon vento ti trovi tutta in terra, anche la mantova ti trovi in terra. Ma sono alto. Perché il vento sta facendo affolate? Avanti altro di più di t***o. No, come ne usare antenne leggere, come ne usare, no? È troppo, se non c'è, se non c'è lo spazio, come ne usare antenne leggere, almeno sei tranquillo. Che non ti tira con gli osso. Ehi, lo sai cos'è tu? Io ho visto niente come se pari di quelli resistenti l'acqua e l'ha pigiato l'antenna, l'ha pigiato la Tornado 8000, non mi ricordo, 156, una cosa del genere. Mi hanno mandato la fotografia, ti la posso vedere se la ciappa, aspetta. Gianni, c'ho questa lingua io che ha preso tanto di quel vento che tu neanche ti immagini, eppure manco lo bucce, manco lo bere ho bucato. Cara, cara! Io ho visto un paio di spezzate nei vari filmati, no? Mi è giunto un errore, prima ne volevo comprare una, poi mi è giunto un errore. Sto dicendo che questa che sto io sarà almeno 10 metri da terra, dal manto stradale, e cazzo è aperto qua, sono in riva al mare, ti puoi immaginare un vento che ha pigliato, eppure non ha coccato manco un bello. Ehi Giova, prova a metterla in un palazzo alto come il mio a vedere se rimbocca un bello vento. Gianni, qua è tutto aperto, se sia in alto hai palazzo come il tuo, o che sia qua cazzo un vento, o... è vento, è vento. Il vento tira sempre di più, appunto, che più in alto sei, più il vento tira. Magari c'è qualche cosa che ti ripara anche, perché io so che oggi al mare non mi attesto, se tu vieni a casa mia vedi il mare, si vede la nave, si vede tutto. No, qua non c'è niente che ripara, qua è libero, libero, campagna, libera. E vabbè, io so solo che qua fa folate di vento allucinanti. Quando ci avevo la Grimaster, la pigiava, la cosa tocca la butta in terra. Per esempio, no che non mi sente nulla. Una campeggia, le cose, scappa. Scappa la cosa che ho messo su. Tutta ricostruita, ma adesso si funziona, beh. A voglia che funziona. Se lo schiaccio non si muove neanche il coso, deve stazionare. Non va a stazionare e c'è antenna. Sì, hai fatto un travaglio, vedo fatto. Avanti. Hola. intendi che casende, dici, capito? Piano piano. Grazie di tutto e a domani se ci siete. Cambio, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, ci sentiamo, buona serata anche a te, buona domenica. Ciao e grazie. Ciao Giovanni, ci sentiamo alla prossima. Allora posso un paio di passaggi con la bestiolina. Ci andiamo qua. Scaldando, sì, piano piano. Falla scaldare, falla scaldare. Oh yeah, aspetta un attimo, non mi sono tutti no. La pagina che ha visto l'effetto ecco. Allora stampa, acqua sulla la carrozzeria è a posto. Voglio fare il foro. Allora faccio domani, arrivo al mondo, sono stanco. Guarda un po' adesso, che questa è... E l'altra, quella non vuole sapere, se non vuole non aggancia. Va bene, quale altra? Ma la tua baracchina? E allora, c'è la 87 che... Penso non va. Ha regolato la modulazione, se la tocca provare la modulazione non va più in trasmissione. Che falso contatto c'è, cioè, avanti aspetta un attimo. Ora com'è? Sembra a posto a tu, già va kappa dai che piano piano fa far scaldare, dai. Ora che ci sente sotto va ancora meglio. Quello bisogna dirlo a Sara, ma non fa niente, dai. No, mi senti con la radio, tipo un casino si sente. Non glielo posso proibire noi di stare con la radio. Spegni, spegni a usare le cuffie, quelle wireless. Com'è, Daniel, com'è il segnale, forte? Non so, attualmente sto usando il Spartano, il 2009. Lo smette la mano, sei sopra la vita di D, dopo più 30. È già lo grido, già. E io qua sono tutto muto, com'è? Forte sei anche tu. Va. E se hai troppo la radio, cosa dici tu, guarda. Anche tu qua, in questa radio, mi stai toccando il DB. Ma questa cosa sta cominciando a pompare forte, sta cominciando a scaldare le valvole, Gesù Cristo mio. Mi sta mettendo la piccola allora. Andrea, ma si sente che è compresso, è sempre limpida. È limpida. Oh, limpida, tranquillo, limpida, perfetto. E così siamo intanto appena. Alla massima potenza qua la massa di nevaria. Occhio che ti scioglie l'antenna, Dani. No, questa già è regolata. Ha regolato per studiato è già. E quanto li sarà? Un po'. La rivetta incandescente. Sì. Cava, questo è quello a presento, un drone. E che apparecchio è? La caffettiera. Ehi. L'RM. RM Italy. Cava. Il mio come si sta comportando già? Cosa? Il mio bene si sta comportando. Già si sta comportando bene. Tu si non ricudi, non si si compuccia già bene. La massa di nevaria, ragazzi, e pumpendo i voci, Eva. Hai saputo che è incandescente. Aspetta un secondo, sì. Pure l'altro giorno stavamo usando con quello. Ne sono diritti a tre. E chi dice cosa è? Questo è il Superstar 2009. Già va bene, che è buono. Gaffa. La mappa te ne scende a casa tu che pompa e dice a cosa. Guarda un po', bambolino. Com'è qua la gioia? Facciamo il bordello, facciamo il bordello qua. Yuhu! Vai con la valvola che al mille. Aiuto, già, facci sognare pure tu, attacca. No, ne ho io, ne ho tutto un altro. Canto mai. Dove è andato il microfono adesso? Guarda un po', mi sentite? Sì, ti sentiamo, dai. Ma non sto uscendo però. No. Come la sta uscendo? Cazzo si fa voglia che esce. Dagli un colpo allo smitter, se non funziona lo smitter magari si è bloccato. No, neanche al rosmetro sta andando già. Cazzo, adesso ti comandi, quanto male stai rogando? Lei ti fatte. No, sta andando già. Allora, il caso è questo, uscendo sta uscendo, magari c'è con meno watt, magari sta partendo al finale, però esce anche bene. Ma non c'ho né picchi di modulazione né lo smitter che si muove, prima si muoveva. Qualche sincope c'è, così è troppo. No, non deve andare così già. Ma adesso? Dico il batta zero. Allora, qua sta uscendo perché sta arrivando a 9.25, dai. Non è possibile che non esca, che esca con pochi watt, 9.25 qua. Perché sono attaccato già, ma neanche qua c'ho le led del lineare si stanno accendendo. Ma non ci sarà qualche problema nel capo? No, perché è lo stesso che stavo usando. Aspetta un secondo, fermo. Lo stesso. Guarda adesso già. Prova. Dimmi un po', guarda, ora la cipolla. Esce 9.20. No, esce 9.20. 9.25 con quello tutto messo male. E adesso c'è 9.20. E qua c'è un bel forte. Vedi, è lo stesso spessore, è la stessa antenna. Questo è vero, tu. Aspetta, che le devi usare buone. E cosa? Il spezzone. Sì, quello sì, ma lo stesso spezzone qua funziona il tutto. E là non funziona. E poi dice che sta uscendo. Daniele, scusa, mi sei 9.30 adesso, non c'avevo gli occhiali, io ho visto male. 9.30 sì adesso. Vedi che c'è la differenza già. Quello non sta uscendo dalla radio. Magari non stai erogando, infatti che deve erogare, ma uscire esce, se parli e ti sento. No. Non lo faccio. Esce che ne può pure su cazzo del rombozzo, va. Ma non è che tocca ti fatti dalla manopola? No, già, anzi, l'ho dovuto aumentare di parecchio pure. Perché se lo metto con la pulizia di prima, sta uscendo con del matto. Capito? Deve fare l'ingresso. Non è questo. Però non li stava erogando. E non c'erano neanche i picchi di modulazione, capito? Avete in matto stavo uscendo. Eccomi. Aspetta, avete parlato in due. Detto, eccomi. Capo di rosmetro, avanti, chi è? Antonio sono, ho cambiato cosa perché troppo stavo pompando quella cosa là. E ma c'è l'antenna? Tanto, non ti stavo riconoscendo, come hai fatto? E perché io non sto uscendo? Hola. Sì, stai uscendo, ma sei in basso di radio, come mai? Passo di radio, ma pure indici. Aspetta. cambiato microfono. Confronti all'altro sto dicendo, non è che sei basso, ma confrontando sei più basso. Vabbè, ma prima aveva una frattura. Già. Aspetta. Guarda a vedere ora, com'è? Io preferivo l'altra, come diceva Gianni. La verità sì, tanto. Questa è più buona. Questa che cos'è? Questo è il grande. Il grande. Ma il campo è? Ehi, come non hai educato il processore? Hai detto che sono un mezzo cieco. Non ce n'è il processore adesso. Sì che c'è il processore. Ma non stai usando il 60 però. Allora tu contrattendi. Ah, buffonendi sì o cosa? Aspetta che guardo sto cosa. Appena parlo pure. Saluto e ci ascoltiamo alle prossime se coincide. Ciao. Ciao Daniele, ci sentiamo, dai, buona serata e buona domenica, ci sentiamo. Avanti Antu, c'è anche Giovanni, fate girare. Ehi, ciao ciao. Ti scusa se mi sono adirato. Perché lo so, ce la sta difettando questo microfono, lo fa controllare qualcuno. Caffaiero smetto. Devo dire io che l'87 è andato in sciopero, invece non sta più. Mi andando in trasmissione, se vai in trasmissione c'è qualche sincope. Sì, tu già c'è quello che va bene, l'aria si la putte dell'87. Però lui va benissimo, microfono e apparato sono, si sposano proprio bene. Kappa. Infatti l'avevamo regolato con Claudio. L'ha aperto il trimerino magico e è fatto andare. Allora vabbè, va molto bene, va forte, va benissimo, la radio è bella, forte. A tu sarà una fesseria, magari c'è da mettere un po' di spray per portati, qualche cosa del genere, magari non c'è qualche conto. Vabbè, dai, di nuovo saluto in circolare a tutti, a domani se coincide, no, alle prossime. Ciao ciao, buona serata. Ciao ciao, ci sentiamo, dai. Avanti Giovanni, ci sì. Giovanni si è fuggito, a tu. Capo, lo so che se non li faccio così non li fa niente, perché praticamente è proprio il cavetto che sta difettando, capito? Ma adesso penso che stia andando. Ma si sente l'alternata, io ti sto ascoltando in cuffia, si sente l'alternata. Quando sicuramente è il capo, o magari interrotto da qualche parte, cose, fa con faccio contatto. No, non è quello, è la ventola. La ventola? C'è la ventola qua sotto. Ah, non c'è paura amico? No, perché adesso me lo sta uscendo. Da un pochino sa. Oh, via. Vabbè. Gaffa. Dopo ti lascio perché devo prepararmi. Capito? Vabbè, dillo a qualcuno che te lo confuti. Vuoi chiedere a qualcuno perché mi stai infettando questo cavolo di coso. Non va bene. Allora, devo portare a qualcuno, me lo far vedere. C'è qualcuno nel fondo, avanti chi sta parlando. Aspetta Gianni, c'è il corpo qua, cambio. Forte chiasso. Sì, ci sono qua i tiri. Tutti, sì. Ti ascolto più forte di poco fa, ti ascolto Santiago Lissi, Radio 3, dai, 4. Poi io ti ascolto. Ciao Antonio. Ciao, no, io già ti ascolto bene già, vai mi ascolti a Itiri. 4920, Radio 5, a tu, di russo. Gatta. Ma che sei Franco? Gatta, tu. Me l'avevo detto che arrivavo forte a Itiri, Vabbè, sto cercando la macchina tu, sto pilotando con il Miaretto. Ciao, già va bene, già. Se ho usato la stazione 2 forse ti arrivavo anche meglio. Franco, io sto usando il Galassi, come sto uscendo, liscio? Sono due punti, sta arrivando, è Radio 5, buona. Cappaga, col Galassi sola. Alla grande, ascolta, adesso io faccio una prova a staccare. Prova? Attacca, Mastia, attacca. Vediamo come esci, me lo me, capito? Prova. Sì, da 3 a 7 vai, fra. E a me come mi senti, me lo me, Aitri, come mi senti? Vai la po, 1, 3, 4, 5, 6, prova. 9, 25, porco. Grazie, caro. Tu sì che mi cambi il nervo. Guarda a me, come mi ascolti così, guarda, 1, 2, 3, prova, ai tiri. Quasi 9, 3, da Gigi. Qui che torno da Gigi. Gabba, sto arrivando benissimo, Antonio sta arrivando a forte. Gabba, guarda, forse Nazione 2 ti arrivavo meglio, perché lì è più vicino ai tiri. Tanto ero più bagnato la testa qua, io non lo so, magari ti ha portato più basso, quando io sono dalla macchina, uscendo con la frutta nera. Va bene, capita. È che c'è il corremo un po' guasto stasera. Sai che marasso si è. fatto il fustanere in giro. Quella fustanera di Franco va bene. Quella sta bene, è una macchina mia perché è nera, capito? Comunque riacca la cappotta, come c'è quella lì. Sì, ce ne sono di fustanere da preoccupare. Tutto sta cercando. E avrei anche la fortuna a far cuffiare. Vabbè, io faccio un attimo il bianco, sto scendo un attimo al supermercato, poi già torno a fare un po' l'acqua. Datemi un quarto d'ora, 20 minuti di tempo, già poi rientro qua. È proprio il tipo di fustanera che c'è a Franco, ce ne sono altre che si assomigliano, ma non vanno bene come quella. Quella che c'è a Franco va bene. Sì. Ne ho visto fustanere, questo sei, tutto sta a trovare la persona a farmela dare, ma ce ne sono sei in un posto di fustanere, ma belle mie, comprese anche quelle con la carica e lo stivo in acciaio, le altre si erano fregate tutte, sono passati gli zingari, si hanno portato via tutto quello che c'aveva accanto via Santa Maria. Gli hanno lasciato solamente la mondezza e basta, tutto questo sono andato via. Ma quel tuo amico che aveva il negozio? Eia! L'ho saputo stamattina, ho chiesto io, capito? Ho detto, ma Santa Maria ci siamo rubati tutto così, gli zingari, mi ha detto. Tutto, frequenzimetri, oscilloscopi, roba del genere, trasmettitori ferri, tutto siamo portato via. Pure fare soldi, capito? Quindi anche le fustanere non ne ha più. Sì, quella ce l'ha invece vita vecchia, e me la mania sì. Adesso devo aspettare che arrivi il nipote. E così se c'è altra roba me la porto via. Io mi ricordo che c'era un lineare, uno spedisce della CTE e poi c'era un lineare della macchina, mi sembra un Bremi se non ricordo male, grigio, con la scatola bianca era. E tu prendi la società, la prima la dai a me. Se riesco quando viene il nipote. Adesso vediamo un po', quando viene il nipote ci parlo e vediamo cosa mi dice. Se me la dà la roba me la prendo, perché devono svuotare tutto, quindi adesso vediamo cosa mi dice. Sto aspettando che venga il nipote dalla cosa. Austriaco, e quindi svuota tutto e si vedrà. Mentre già me lo fa sapere quello che deve svuotare tutto quanto, la casa, eccetera, eccetera. Dice che non si poteva manco entrare nella condizione che vera. Hai capito? Quando sono venuto, dice così, i pompieri l'hanno portato via, che era 4 giorni lì sopra a materasso, sono portato via materasso e tutto, perché non riuscivano a togliere dentro la casa, perché c'era un bel roba in mezzo ai piedi. Ma perché è morto? Lui è morto, sì. Ma l'ho trovato morto in casa, così? Ehi, l'ho trovato morto in casa dopo 4 giorni. No, non lo sapevo io. Gianni, ho detto al cultore, guarda tanto il QRT che è stato rientrato, ne dà. Ciao a tutti, ciao già. Quello che è possibile ce l'ho io, ciao. Ciao, ciao, Fra, ci sentiamo, vai. Se ti viene bene, passa. Ma fammi sapere, dove si vuole una mano a svuotare. Sì, non dipende da me, ma se vuole una mano a svuotare, quello già te lo faccio sapere, così ti porti via un po' di roba. Ciao, pagato, basta dirmelo, di domenica andiamo. Già un gioco un die. Appunto, per quello, quindi, sto aspettando che arrivi il nipote, così. Da quello che gli ho detto, deve svuotare tutto. Me lo fa sapere.